GR Europa. E buon pomeriggio anche da Anna Migliorati. Dunque, si è concluso da poco, come avete sentito, il vertice europeo. I 27 hanno varato, dopo ore di negoziato legato soprattutto alle resistenze britanniche sul bilancio settennale dell'Unione, il pacchetto per l'occupazione giovanile, che si avvarrà dei 6 miliardi già previsti e altri che saranno recuperati dal bilancio europeo attraverso il nuovo meccanismo di flessibilità. Per l'Italia le risorse sono all'incirca 1 miliardo nel primo biennio, ha detto, come avete sentito, il premier Enrico Letta. Sul tema della disoccupazione giovanile ha premuto molto l'acceleratore l'Europarlamento. Ieri il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha ammesso che 6 miliardi di fondi rappresentavano una goccia nell'oceano. Al microfono di Sergio Nava, Antonio Cancian, eurodeputato PDL e membro della Commissione per l'Industria. In questi due giorni il Consiglio europeo ha cercato di mettere a fuoco questa iniziativa su suggerimento forte anche dal Parlamento europeo, perché la scorsa settimana noi abbiamo approvato una risoluzione di incentivare il Consiglio europeo a spendere al più presto quei 6 miliardi che si renderanno disponibili dal 1 gennaio. Però è importante che, al di là della tempistica, ci sia anche un'ulteriore aggregazione da parte delle risorse disponibili nei vari Stati. E noi sappiamo che ci sono altre risorse che si riferiscono specialmente ai fondi strutturali non spesi. Altro accordo raggiunto è il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, seconda gamba del progetto di Unione Bancaria Europea, tema che è stato al centro della discussione di questa mattina. I ministri delle finanze hanno raggiunto l'intesa anche su questo, intesa per far sì che a pagare siano in primis gli azionisti degli istituti di credito, poi i detentori di obbligazioni, infine conti correnti ma superiori a 100.000 euro. Leonardo Domenici, eurodeputato, membro della Commissione per i problemi economici e monetari. Va bene che si sia fatto un passo in avanti, ma non si può parlare ancora di unione bancaria. Perché si arrivi all'unione bancaria abbiamo bisogno di definire gli strumenti per il Fondo Comune Europeo di risoluzione delle crisi e di fare entrare in vigore, cosa che accadrà, la supervisione unica da parte della Banca Centrale Europea, della BCE. Però indubbiamente qualche cosa c'è. C'è il fatto che intanto attraverso i cosiddetti bail-in, cioè attraverso il coinvolgimento nelle operazioni di risanamento o di risoluzione, prima di tutto dei grandi depositanti, degli obbligazionisti e degli azionisti, si cerca di evitare quello che è avvenuto finora, cioè che il peso dell'intervento per salvare le banche gravi prima di tutto sui cittadini contribuenti. E continueremo naturalmente a raccontarvi quel che accade a Bruxelles con GR24 dall'Europa. Buon fine settimana, torniamo lunedì alle 13.15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.